Il verbo purificare nelle sue varie forme grammaticali si trova nella Bibbia più di un centinaio di volte. Un verbo quindi non trascurabile. Purificare, secondo l'uso comune, è quell'atto mediante il quale si toglie da una sostanza ciò che ci è impuro. Questo procedimento è usato sia in chimica, sia nell'ambito religioso. In chimica è quel procedimento di separazione operato su di una sostanza per eliminarne le impurità in grado di modificarne le proprietà. Nell'ambito religioso è quel rituale, mediante il quale persone o cose si rendono degne di entrare o rientrare a contatto con il sacro. Oggi il verbo purificare non è molto usato, anche se ogni giorno diciamo che tutto è inquinato, infetto o sporco. Ma per esprimere il bisogno di avere tutto allo stato puro, usiamo i verbi pulire, detergere, disinfettare o In effetti dobbiamo ammettere che il verbo purificare lo si trova più nella Bibbia che nel nostro linguaggio, ma questa diversità culturale non ci deve impedire di afferrare il pensiero di Dio, perché, anche se i termini cambiano, il senso rimane sempre lo stesso. Perché troviamo nella parola di Dio almeno un centinaio di volte il verbo purificare? La risposta è presto detta. Poiché il Dio degli ebrei e dei cristiani è un Dio trino, tre volte santo, e poiché la creatura umana è tre volte impura o peccatrice, nel corpo, nell'anima e nello spirito, è evidente che Dio ordini all'uomo di purificarsi. In una sua lettera scritta 2000 anni fa a dei credenti che avevano una condotta alquanto poco santa, Paolo dà questo comando. Avendo dunque queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. 2 Corinzi 7, 1. L'ordine di Paolo è evidente. Colui che ha posto fede in Gesù deve purificarsi, cioè deve togliere tutto ciò che non è gradito a Dio, sia per quanto riguarda il corpo, sia per quanto riguarda il lato spirituale. In definitiva, deve essere santo o santificarsi in ogni aspetto del suo essere trino, corpo, anima e spirito. In effetti, l'obiettivo degli obiettivi del credente non è compiere cose grandi o importanti, ma è l'essere santo. Senza la santità, nessuno, ma proprio nessuno, può avvicinarsi a Dio e essere usato da Dio. Perciò le domande che si impongono sono: come posso io purificarmi ogni giorno? Che strumenti posso usare per essere sempre più santo e assomigliare o essere perfetto come è perfetto il Padre mio? I mezzi sono tanti, ma nella parola di Dio ho individuato 4 mezzi che sono in grado di purificarci sempre più. 1. La confessione dei peccati. 2. La comunione fraterna. 3. Il sangue di Cristo. 4. Il ritorno di Cristo. 1. Ciò che purifica è la confessione dei peccati. 1 Giovanni 1, 9. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Il vero e unico problema di un mancato rapporto con Dio risiede in una sola cosa, nel peccato. Tramite il profeta Isaia l'Eterno fa questa diagnosi in merito al suo popolo Israele, in mezzo al quale più volte egli aveva operato e nei riguardi del quale ora aveva. Ecco, la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire. Ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio, e i vostri peccati hanno fatto nascondere la sua faccia da voi, per non darvi ascolto, punto. Poiché le vostre mani sono contaminate di sangue, e le vostre dita di iniquità, le vostre labbra proferiscono menzogna, la vostra lingua sussurra perversità. Nessuno muove causa con giustizia, nessuno la difende con verità. Hanno fiducia nelle parole vuote e dicono il falso. Concepiscono il male e partoriscono l'iniquità. Isaia 59.14. A nulla serve lamentarsi se Dio non interviene nella nostra vita. A nulla serve moltiplicare le preghiere con il rosario, se non si prende coscienza che il nostro comportamento non è approvato da Dio. Chi afferma di credere in Cristo deve abbandonare pratiche pagane come preghiere ai santi e ai morti. Oppure deve prendere coscienza che Cristo nella sua vita è solo un ospite e non il padrone. La parola di Dio ci dice che il peccato va riconosciuto per poi confessarlo. Da notare che la Scrittura non ci ordina di chiedere perdono, perché con un simile gesto manchiamo in due cose. Prima di tutto manchiamo di fede, perché Dio ha già perdonato tutti in Cristo, e questo quando Gesù è morto in croce per i peccati dell'umanità. Inoltre, chiedendo vagamente perdono, non specifichiamo a Dio di quale colpa ci riconosciamo colpevoli. Perciò non è solo necessario, ma è anche indispensabile che quando ci riconosciamo colpevoli confessiamo specificatamente i nostri peccati. Solo confessando a Dio i peccati che stiamo commettendo, possiamo essere purificati da altri peccati, cioè possiamo abbandonare di volta in volta ciò che è sbagliato. Forse questa è una ragione per la quale dei credenti continuano a compiere gli stessi errori, perché non confessano in modo specifico le proprie trasgressioni. In questo ancora una volta il cattolicesimo romano ha preso una verità storpiandone il principio perché ordina ai suoi fedeli la confessione meno cosa più che giusta. Meno ma una confessione fatta degli uomini, i quali si arrogano addirittura il diritto, spettante unicamente a Dio, di elargire il perdono. Pochi hanno compreso che la confessione dei peccati, istituita dal cattolicesimo romano, è anch'essa un peccato da evitare. 2. Ciò che purifica è il sangue di Cristo Gesù. Quando si parla del sangue di Cristo, dobbiamo intendere tutta l'opera che Gesù ha compiuto. Pochi hanno compreso il valore del sacrificio di Cristo anche tra i credenti, perché spesso essi vivono come se Cristo non fosse morto e risorto. Perciò occorre ricordare che il sacrificio espiatorio di Cristo Gesù si ripercuote su vari fronti. A. Il sangue di Cristo purifica la coscienza. Ebrei 9:13-14. Se il sangue dei tori e dei capri e la cenere di una giovenca spersi sopra i contaminati li santifica, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno offerse se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Il discorso dell'autore della lettera agli Ebrei è disarmante. Se il sangue degli animali aveva la capacità di rendere l'uomo idoneo ad avvicinarsi a Dio, quanto più il sangue di Cristo renderà il credente degno di entrare o rientrare. Perciò, è bene ricordarlo, a meno chi vuole eliminare inutili atteggiamenti religiosi fini a se stessi, quali la messa cattolica romana o la mediazione del sacerdote o del papa, deve credere che il sangue di Cristo sia sufficiente per renderlo giusto per sempre. B. Il sangue di Cristo purifica la comunione fraterna. 1 Giovanni 1:7. Se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Il termine luce usato da Giovanni è sinonimo di amore, perciò Giovanni sta dicendo che se i credenti si amano, hanno comunione l'uno con l'altro. Dunque, la comunione fraterna è basata e resa solida dall'amore. E dato che l'amore è uno degli atteggiamenti più difficili da mettere in pratica, Giovanni sostiene che l'opera di Cristo ci insegna ad evitare tutti quegli errori che impediscono la comunione fraterna. In effetti, la comunione fraterna è composta di sopportazione, di pazienza, di perdono, di delicatezza e di ogni atteggiamento che non offenda il prossimo. Pochi hanno compreso che la comunione fraterna aiuta il credente a purificarsi, cioè a togliere l'egoismo, individualismo e soggettivismo. Solo un amore sviscerato verso il prossimo può indurre il credente a eliminare certi peccati. 3. Ciò che purifica è l'obbedienza. 1 Pietro 1:22. Avendo purificato le anime vostre con l'obbedienza alla verità mediante lo Spirito, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione, amatevi intensamente gli uni gli altri di puro cuore. Quando si ubbidisce alla volontà di Dio rivelata, si è in grado di vedere pian piano altri errori. Colui che pone fede in Cristo può farlo solo quando è cosciente dei propri peccati. In seguito, mediante una comunione con Cristo basata sulla parola di Dio e non sulla tradizione, vede altri errori. Il dramma di tanti è che dopo aver preso coscienza tramite l'opera dello Spirito Santo riguardo alla propria peccaminosità e averne accettato il giudizio di Dio confidando in Cristo per ottenere salvezza, In seguito non ritengono di avere atteggiamenti dai quali purificarsi, cioè atteggiamenti che devono cambiare. Diceva una moglie ad un marito: «Non mi hai sposata com'ero? Ora mi tieni!» Per questa moglie non vi era nulla da cui doversi purificare. Triste matrimonio, ma soprattutto triste situazione spirituale. 4. Ciò che purifica è il ritorno di Cristo. 1 Giovanni 3. 3. In merito al ritorno di Cristo, l'Apostolo Giovanni scrisse: «E chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso come Egli è puro». Per un cristiano, il ritorno di Cristo costituisce una delle verità basilari, al punto da cambiare la sua vita, anche perché il ritorno di Cristo è per lui un motivo per ricevere i premi che Dio ha promesso. Infatti, per il credente, il ritorno di Cristo non è soltanto la promessa di una vita migliore, ma è il momento in cui gli sarà concesso di regnare con il suo Signore. E poiché regneranno con Cristo tutti quelli che saranno stati vincitori sul peccato e sulle tentazioni, il ritorno di Cristo è un motivo forte per purificarsi da tutto ciò che non è gradito a Dio. Se Cristo non tornasse e non ci fossero i premi promessi, i credenti si potrebbero anche scoraggiare per le prove. Ma poiché sanno che ci sono grandi ricompense, sono più che mai motivati a lasciare cattive abitudini, ad abbandonare il peccato e ogni cosa contraria al volere di Dio. Chi non ha nel profondo del suo cuore un forte desiderio di purificarsi può mettere seriamente in dubbio la sincerità della sua fede in Cristo, dato che amare Cristo e porre fede in Lui vuol dire desiderare di piacergli in ogni cosa. Sta scritto nella parola di Dio che un marito si preoccupa delle cose del mondo, di come possa piacere alla moglie, e lo stesso della moglie verso il marito. 1 Corinzi 7, 32, 35. Ora, se questo è vero e giusto per le cose terrene e passeggere, quanto più un credente cercherà di piacere a Cristo che lo ha salvato dalla perdizione eterna e da una vita di schiavitù e insensata. E come può dimostrare il suo amore un figlio di Dio se non nel purificarsi? Solo così il verbo purificarsi non rimane solo un verbo senza senso, ma una realtà di tutti i giorni. Ottobre 2006. Ellero.